Cialtroni nello spazio. La trasmissione di approfondimento culturale informatico di Radio Onda d'Urto. Tanti gli argomenti che andremo ad affrontare oggi, come ogni mercoledì sulle frequenze di Radio Onda d'Urto attorno alle 12.40 più o meno, e poi in replica sul sito per i veri appassionati su radio.circolab.net. Un ringraziamento ancora al nostro fantastico curatore del sito, che è Carlo. Carlo, no, esatto, salutiamo Carlo e lo ringraziamo. Dagli studi invece siamo Marco, Zamp e Ale. Perché abbassi la voce quando lui abbassa la musica? Tu parla comunque ad alta no, voce. No, perché stavo attaccando la cuffia, mi hai guardato male, ho detto si vede che l'ha già detto mentre ero distratto. No, no, assolutamente no. Allora, tanti gli argomenti di cui andremo a parlare quest'oggi. In primis avremo un'intervista con una giornalista scientifica per parlare del farmaco Open contro la malaria che è stato lanciato nei giorni scorsi, il 1° di marzo, un farmaco che costa meno di $1 per gli adulti, mezzo per i bambini, che sarà distribuito a strutture pubbliche, enti internazionali e a ONG. Ne parleremo tra pochissimo. E poi il resto della scaletta, Alessandro. Andremo a vedere un paio di notizie. Una che riguarda la RIA negli Stati Uniti, il digitale terrestre che è arrivato all'epilogo, o meglio all'inizio, vedremo se sarà l'inizio della fine. Una proclamazione del garante per la privacy sulla privacy appunto dei dipendenti, che va a completare il quadro normativo che già si era definito con la sentenza della Cassazione. Un interessante esperimento molto concreto dell'Università di Ferrara, qualche notizia sul Circolab e poi musica rigorosamente Creative Commons. Intanto ricordiamo la nostra mail, che è radio@numerica.org, e il sito, che è radio.circolab.net. No, dovremmo essere anche in collegamento con Bussola del collettivo Laser per affrontare il primo argomento di questa puntata di oggi. Ci sei, Bussola? Sì, ci sono, ciao a tutti. Ciao, grazie di essere con noi innanzitutto. Con te volevamo parlare del farmaco che è stato lanciato nei giorni scorsi, il 1° di marzo, il farmaco Open contro la malaria. È stata lanciata anche, diciamo così, con una forte, diciamo, soddisfazione da parte anche dei mass media, che presentavano questo farmaco come una possibilità di svolta seria per la cura di questa malattia, che rendendo il farmaco molto più economico degli attuali prezzi, cioè meno di $1, e proporlo a prezzo quasi politico a strutture pubbliche, enti internazionali e ONG, è forse un cambiamento notevole sotto alcuni profili. Volevamo parlarne un po' con te. Innanzitutto, si tratta di quali conseguenze potrebbe avere questo lancio? Ma è sicuramente un'azione abbastanza interessante, penso che è la prima volta che viene messa in sostanza, viene puntato il riflettore su un'operazione di questo tipo, una prima volta che arriva dopo recentissime, ancora abbastanza recenti, questioni per esempio sul fatto che erano successe in Brasile, sul fatto che alcuni paesi senza disponibilità di mezzi ma con capacità di produzione farmaceutica hanno più volte cercato di sfidare Big Pharma, cioè le grandi aziende, dicendo che non possono stare al gioco dei prezzi al rialzo imposti appunto alle grandi aziende. Ora, questo esperimento, diciamo, che è interessante perché è una proposta del Drugs for Neglected Disease Initiative, che è un programma all'interno di Medici Senza Frontiere, che ha collaborato insieme però a una delle più grandi aziende farmaceutiche, cioè la Sanofi Aventis, che è la seconda più grande compagnia farmaceutica. Quindi è particolare come situazione, perché abbiamo una situazione appunto di associazione e di persone che si sono sempre battute in prima linea contro la brevettazione, e dall'altra parte una collaborazione appunto con i diciamo, i fautori del patenting e della brevettazione, che fino a ieri hanno sempre brevettato di tutto e di più, persino negando, quando c'è stata la sfida del Sudafrica qualche anno fa, che per i farmaci AIDS aveva dichiarato appunto che non poteva più pagare le royalties. Anche in quel caso il Sudafrica si era avvalso di una legge sudafricana e anche delle nuove regole che erano state messe in atto all'interno del WTO, ciononostante alla fine le grandi compagnie farmaceutiche hanno lo stesso dichiarato guerra al Sudafrica e solo all'ultimo momento, diciamo, nei tribunali si è dipanata la questione, consentendo al Sudafrica di fare una produzione al di fuori delle royalties. E anche però, un po' per salvare la faccia, diciamo così, da parte di Big Pharma. Nel senso, esatto, in quel caso era stato criticato anche perché sembrava proprio un'operazione più che altro di facciata, e comunque abbiamo visto che non è stato facile assolutamente. In questo caso è appunto, dico, interessante perché è un farmaco, tra l'altro, che deriva dall'artemisina, per cui è interessante anche dal punto di vista proprio del principio attivo che viene utilizzato. L'artemisina è derivato di una pianta che è l'artemisia, una pianta spontanea, che in Cina veniva già utilizzato ampiamente, popolarmente, contro la malaria. Cosa è successo? Che le grandi compagnie farmaceutiche sono andate, diciamo, a rubare i segreti, come spesso avviene, delle popolazioni, e in questo caso quindi hanno scoperto che in Cina veniva usata l'artemisina, e l'artemisina era efficace molto contro la malaria, e l'hanno presa e rifatta sinteticamente, e non solo, in realtà poi usano anche una miscela di estratti naturali, e hanno appunto creato dei farmaci. Quindi a questo punto è su questo farmaco è quasi naturale che venga eliminato il concetto di royalties, perché è un farmaco che è su un principio attivo naturale che veniva già utilizzato ampiamente, e quindi il farmaco in sé per sé in realtà non aveva royalties, perché non è stato inventato da qualcuno. È vero però che la Sanofi avrebbe potuto decidere, siccome ha fatto una nuova pillola combinando questa artemisina con un altro farmaco, avrebbe potuto decidere comunque che la sua innovazione stava nella combinazione di questi due principi attivi e nella creazione di un confettino fatto così e non in un altro modo, e quindi lo poteva far pagare un sacco di soldi. Sì, e non sarebbe stato il primo caso di sfruttamento di questo tipo di risorse naturali e conoscenze condivise da millenni, insomma. Esattamente, siccome gli esempi sono numerosi ci tocca essere contenti di questa situazione, che però in realtà dovrebbe essere la normalità, anche perché in realtà la Sanofi in questo caso di nuovo ci guadagna enormemente dal punto di vista dell'immagine. Non solo, ma ci sono anche degli altri vantaggi. Allora, innanzitutto si garantisce un ricco contratto con l'OMS, perché in sostanza, garantendogli un farmaco contro la droga a basso prezzo, l'OMS ovviamente prediligerà questo tipo di farmaco rispetto ad altri. Quindi la Sanofi si troverà a venderne molti di più. C'è solo da sperare in una gara al ribasso dei prezzi a questo punto, però. Allora, il ribasso dei prezzi, quando sei a $1 per confezione di trattamento, direi che non so se puoi andare ancora più giù. Tra l'altro un altro farmaco esiste già in realtà, che costa $3 invece che uno, e che è stato prodotto dal 2001 dalla Novartis, e che anche questo è a base di artemisina peraltro, anche questo era già stato venduto all'OMS con contratti appunto di favore. Quindi, se vogliamo, sono questi due che vanno in concorrenza. Bussola, io ti ringrazio. Ricordiamo anche la trasmissione che curi tu insieme ad Amisnet e il resto del collettivo Laser, che è disponibile su amisnet.org, in cui spesso trattate dei temi molto simili a quelli che trattiamo noi all'interno di Cialtroni nello Spazio. Per il momento, se non hai niente da aggiungere, ti ringrazio. Niente, ringrazio voi. Ciao, a presto. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. We'll be right back. Andiamo a vedere prima della pausa musicale il regolamento che verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, un provvedimento generale da parte del garante della privacy. E come dicevamo prima, è un provvedimento che va a completare un quadro normativo che già si stava definendo negli ultimi mesi con alcune sentenze della Cassazione di cui abbiamo parlato anche noi. Il garante della privacy stabilisce che i datori di lavoro pubblici e privati non possono controllare la posta elettronica e la navigazione internet dei dipendenti se non in casi eccezionali, quindi che chiaramente ci sono sempre in questo genere di normative, purtroppo, però diciamo che nella norma non è possibile controllarli e di conseguenza non è nemmeno possibile da parte del datore di lavoro rivalersi sul lavoratore nel caso venga a scoprire un utilizzo tra virgolette improprio degli strumenti informatici aziendali come la posta e la navigazione internet. Il provvedimento comprenderà una serie di definizioni e di consigli da parte del garante che riguardano appunto l'obbligo, il consiglio rispetto ai datori di lavoro di fornire informazioni riguardo a un corretto uso degli strumenti informatici e anche della corretta informazione da parte del datore di lavoro dei diritti dei dipendenti nell'utilizzo appunto di questi due strumenti. Inoltre il garante consiglia alle aziende l'utilizzo di strumenti preventivi per evitare appunto l'uso improprio di posta elettronica e di internet da parte dei dipendenti. In sostanza il provvedimento dà la possibilità alle aziende di utilizzare tutti quegli strumenti come i filtri, i firewall eccetera per impedire ai dipendenti di utilizzare la posta, ma impedisce loro di rivalersi sui dipendenti quando questi strumenti non vi siano. E inoltre dà anche alcuni consigli generali riguardo appunto all'utilizzo degli strumenti informatici nelle aziende, come ad esempio l'utilizzo di indirizzi collettivi, come ad esempio info, ufficio reclami, eccetera, eccetera, strumenti quali segnalazione di assenza, insomma sono cose abbastanza normali. E addirittura arriva a consigliare il datore di lavoro di fornire al dipendente, oltre a una casella di posta, diciamo, ad uso professionale, una ad uso privato. Una, per esempio, lavorate in un'azienda che si chiama Pincopallo, quindi nome chiocciola Pincopallo, in qualche modo riconoscibile come casella di posta di lavoro, ecco, mettiamola così. Esatto, no, in più dice, oltre a quella che normalmente c'è in tutte le aziende, fornirne un'altra al dipendente in maniera tale che il dipendente utilizzi quella come casella di posta privata per l'uso privato. Da una serie di consigli. Vedremo bene il testo quando sarà pubblicato. Tendenzialmente direi che l'iniziativa è lodevole, nel senso, comunque sembra una normativa fatta abbastanza bene, il che è quasi incredibile. Andiamo a sentirci un gruppo trip hop francese preso sempre da yamendo.com, Creative Commons. Musica libera, scaricabile, riutilizzabile a fini non commerciali. Il gruppo si chiama Jade e andiamo a sentire la traccia Silly Girl. So proud of myself. Radio Onda d'Urto, sempre all'ascolto di Cialtroni nello spazio, trasmissione di informatica libera contro i brevetti, come abbiamo sentito anche nella prima parte della puntata con l'intervista che abbiamo fatto con Bussola. Adesso invece andiamo a parlare di qualcos'altro, però sempre legato, simpatico Ale, che durante la trasmissione fa dei certi gesti carini. Andiamo a parlare di musica e di diritti d'autore, giusto Marco? Ah, sì, allora... Preferisci che parliamo di qualcos'altro? Parliamo di qualcos'altro. Di nuovo? No, Marco, non sono pronto, Marco non cosa. È pronto, allora andiamo a parlare di... Devo far finta di leggerlo, almeno. Televisione digitale e quello che succede in una delle più belle isole del mondo, ovvero la Sardegna. Infatti, dalla circa una settimana a Cagliari è arrivato il contestato, temuto e atteso digitale terrestre. La televisione... è arrivata, che ha detto così fa un po' impressione. Sì, un po' sì, cioè hanno spento i canali Rai, Mediaset, Rete 4, La 7, Rai 2 e altri, e sono visibili solo con il decoder del digitale terrestre, quello per cui è stato multata l'Italia per i rimborsi che erano stati fatti quando poi si è scoperto che il decoder venivano prodotti da parenti stretti di Silvio Berlusconi, e lui aveva fatto un incentivo in cui sostanzialmente li pagava il 90% lo Stato. Che cosa succede? Questo vuol dire che chi non ha questo digitale non ha un decoder digitale terrestre non può più vederlo, non può più vedere questi canali a Cagliari. Non è un caso che infatti in molti nella settimana scorsa siano andati a comprarlo, e insomma vedremo che cosa succederà, se funziona. 7.000 in un giorno solo ne hanno venduti, non male come operazione commerciale, non male, non male. Vediamo se Marco è pronto. Cos'hai da dirci? Sì, dovrei esserci. Allora, in tua difesa. Più o meno. La RIA, l'Unione dei Discografici Americani, quasi la corrispondenza della SIAE in Italia. Esatto, qualcosa del genere. Ha iniziato a distribuire delle lettere alle università, ad alcuni atenei americani, in cui dice a questi atenei di notificare il fatto che alcune persone sono state beccate a condividere della musica su internet o del materiale copyrightato su internet, e che questi hanno la possibilità di andare a pagare una penale sul sito appunto della RIA, in modo da evitare qualsiasi ripercussione legale, addirittura di evitare il fatto che l'azione legale nei loro confronti venga concretizzata, ovvero sia la RIA li ha scoperti a condividere della musica, e allora dice: se ci date un tot di soldi noi non vi denunciamo neanche, e facciamo sembra quasi una tangente di dimenticare il fatto che, esatto, ci paghi il pizzo allora noi ti proteggiamo. Beh, più o meno funzionamento lo stesso, insomma, qualcuno ti becca, ti dice vai su questo sito internet, prendi il tuo PayPal, ci paghi o ci paghi con la tua carta di credito, e finisce tutto qua, senza neanche passare da un tribunale, senza che nessuno si vada a finire vada una a sorta un di avvocato, tassa sul download, sì, esatto, cioè diventa una tassa sul download, come se fosse un abbonamento a un sito dove tu puoi scaricare tutto quello che vuoi, con la differenza che però loro non ti offrono nessun servizio, e penso resti che si comunque nella parte, penso che si parli di migliaia di sì, dollari più o meno, tutte le multe che sono state pagate finora erano nell'ordine di 5.000 eccetera, insomma anche qualcosa meno, 2-3.000, però generalmente si girano intorno a questa cifra, una tassa annuale un po' cara per condividere anche della musica. Non è una tassa annuale, nel senso che se il giorno dopo tu scarichi un'altra canzone, questi qua possono mandarti un'altra lettera, nel senso. Sì, infatti. E beh, no, è bella la progressione che hanno avuto appunto le case discografiche, dove all'inizio sono riuscite, pagando fior di soldi i vari politici, a far passare delle leggi in modo da rendere il download illegale. Dopodiché sono riuscite a far passare delle leggi che permettessero a loro di andare a spulciare direttamente dai provider i dati su chi era quello che si era connesso e che aveva condiviso quella tale canzone. A quel punto arrivare direttamente alla persona senza passare attraverso un tribunale, e a questo punto addirittura chiedere i soldi del risarcimento direttamente alla persona, senza scavalcando completamente la giustizia. Beh, diciamo che l'approccio della RIA gli potrebbe portare un po' di soldi, perché mediamente la RIA spara fuori qualcosa tipo 15.000, cioè migliaia di denunce ogni anno, forse anche di più, non lo so. E, cioè, di recente ne ha mandate fuori, ne ha mandate circa 15.000 di queste denunce, e è decisamente poco verosimile che tutte queste denunce riescano ad arrivare poi in sede legale, a essere dibattute e a un processo di terzo grado di giudizio. Esatto, cioè diventerebbe, annullerebbe completamente tutto il sistema giudiziario americano, per cui stanno cercando un modo per riuscire comunque ad arrivare in dei tempi ragionevoli al risarcimento dei danni. E intanto ricordiamo che secondo i rapporti che sono usciti recentemente, la musica, comunque l'industria discografica, non ha perso dei soldi, ma anzi è in piena espansione e ci sono anche dei profitti molto alti recentemente. Ne abbiamo parlato nelle scorse puntate, non stiamo lì a recitare i dati. In realtà era... No, perché questo dato è un po' vecchio, Marco, quello che stai guardando. Sì, no, però di questo articolo che di tirato giù da megalab.it mi piaceva la frase che appunto le case di l'industria musicale e cinematografica ha un comportamento che ricorda quello di un dinosauro che ha paura di estinguersi, che non vuole aprirsi al nuovo. La pigrizia mentale dei, appunto, di questo settore, che non riesce a soggettarsi alle nuove tecnologie e ha un sistema di distribuzione dei contenuti affermatissimo, perfettamente funzionante e quant'altro, ma cerca di tenere un modello di vendita vecchio, però appoggiandosi appunto alla spinta di nuove leggi sempre più repressive di, appunto, della condivisione della musica su internet. Ci sono invece altri dinosauri che a volte si muovono un po' più velocemente. Incredibile, accade anche nel mondo dell'università italiana. Alessandro. Sono il primo ad essere stupito, come dire. Ero convinto che l'università italiana fosse più o meno tutto uguale, ma invece pare di no. No, in realtà probabilmente sarà tutta una campagna pubblicitaria, oppure oppure si sono resi conto che bisogna risparmiare dei soldi. Esatto. Beh, ma questo non è poco interessa poco gli atenei. Quando però finisci i soldi. No. In realtà è molto più probabile che ci sia qualcuno, ad esempio questo Cesare Stefanelli, delegato del rettore per l'informatica al Dipartimento di Ingegneria dell'Ateneo di Ferrara, che appunto parla di questo sistema che hanno implementato, che è un sistema completo VoIP. Ricordiamo cos'è il VoIP: è quella tecnologia che permette di telefonare, di comunicare con un apparecchio telefonico tradizionale e su una linea dati, quindi su una DSL, su una connessione internet, chiaramente che deve essere un po' veloce. Quindi tutta la rete, l'Ateneo di Ferrara, entra in questa rete. Sostanzialmente cosa significa? Che quante sono? 12 o 15? Ecco, sì, la cosa interessante, cioè, nel senso che il VoIP lo possono implementare tutti a casa. Ci siamo riusciti anche noi al Circo Lab, per cui non è una cosa difficile. E la cosa interessante è invece il creare grosse strutture, ad esempio centralini, grandi traffici, distribuzione appunto di numeri interni, per cui anche con la telefonia tradizionale servono degli apparati appositi. In questo caso vengono utilizzati dei computer con una distribuzione Linux e un software che si chiama Asterix, che tra l'altro, seguendo la lista Hack Meeting, non è nemmeno uno dei più eccezionali, insomma non è uno dei migliori. E comunque, vabbè, lasciando perdere i tecnicismi da smanettoni, è comunque un software che funziona, e questa è la dimostrazione, appunto, l'intero Ateneo che non ha più un telefono tradizionale ma utilizza tutto su VoIP e con tecnologia open source, quindi a costo zero. Ci sono i dettagli tecnici sul, noi abbiamo preso l'informazione da Punto Informatico, comunque se cercate su Google trovate diversi articoli, e l'Ateneo ha presso il suo sito la struttura con appunto la struttura di rete, tutto quello che è servito per crearlo, e anche i vari servizi che implementa come il wifi, la telefonia voice over IP e alcune altre informazioni riguardanti l'Ateneo. Una rapida notizia, questa è ancora da hanno detto che non la vabbè, siamo i soliti, perché cioè nel senso abbiamo detto che non la dicevamo, però invece tu hai deciso di darla dopo che eri tu a dire che non la davamo questa notizia. No, ma erano due notizie diverse. No. Va bene. Allora, la prima era la notizia, il problema che non capisce. Non è il problema è che boh, è l'Alzheimer. Dai, veloce, veloce, che siamo voglio parlare io. Siamo in scadenza di allora, questa nostra. Allora, sembra proprio che siano riusciti a craccare Windows Vista. Il nuovo sistema operativo di casa Microsoft, che da un gruppo di cracker chiamato Pantheon, che siano riusciti a capire bene come funziona la questione dell'attivazione della copia appena installata, e che quindi riescano, cioè si possa utilizzare appunto questo crack per evitare di acquistare correttamente una versione di Windows Vista, ma semplicemente scaricandola e bla bla bla, umma umma. Ecco, la cosa più incredibile è che voi utilizzerete dei codici di qualcun altro. No, quello non dovevamo dirlo, era quella la differenza. Perché quella non si sa se è vero o no, aspettiamo di verificare. Quella dovevamo aspettare. Invece ormai diciamolo, abbiamo accennato. Sì. Pare che, ma anche c'è gente che dice che non sia assolutamente vero. E siamo invece riusciti a trovare un altro metodo per craccare Windows Vista, che è quello di ricavare dei codici, i famosi 25 lettere VKWSK di bla bla bla, del codice di attivazione del software Microsoft, e sembra che siano riusciti a trovare appunto un metodo per trovare questi codici di attivazione validi, e a quel punto il risultato sarebbe quello di avere una installazione di Windows Vista perfettamente legale, e addirittura di invalidare l'acquisto, la licenza di Windows Vista che verrà correttamente comprata da qualcuno. Vabbè, diamo un riferimento via web e poi ognuno si farà i suoi controlli. Allora, dell'altro non ho qui la notizia, di quella probabilmente vera di Windows Vista craccato, il sito è www.gxware.org. Okay. E sempre sul fronte della Svistas News, in questa settimana è uscito una segnalazione di un bug per appunto Vista Internet Explorer 7, per cui non esistono ancora degli exploit, però il bug c'è e si attende la prima correzione per Windows Vista. In chiusura parliamo invece di un nuovo servizio del Circolab. Anche senza far partire la sigla, abbiamo qualche istante. Aspetta, dobbiamo parlare di due cose che riguardano allora, il Circolab. Fondamentalmente, prendiamo, lasciamo un attimo con calma, abbiamo ancora 5 minuti, dai. Grazie al fantastico Alessandro, che è sempre troppo timido per vantarsi, abbiamo una fantastica piattaforma di blog che offriamo sul sito gnumerica.org. Dove, quindi se voi volete aprire il vostro blog e vi sta antipatico autistici, oppure non volete stare nelle classiche logiche commerciali e quant'altro, passate sul sito www. Oppure non avete la mail su autistici. Ma in realtà sì, il problema della piattaforma, scusa, ho fatto una battuta che potrebbe sembrare cattiva, ma in realtà è che su autistici, per poter aprire il proprio blog, bisogna avere una email registrata proprio sul server di autistici, quindi paranoici, inventati, oppure su qualcuno dei server affini come riseup.net. E questa insomma è una limitazione che giustifica in qualche modo anche un servizio molto, molto simile. E poi, dato che quelli di autistici sono sempre, cioè spesso hanno problemi, sono diciamo come non dire? Portare sfiga, no intendo, spesso appunto si sono lamentati dell'eccessivo carico che si sono trovati a sostenere, sì, dovuti appunto al fatto che sono dei lavorano decisamente soldi, bene, ma sono potete sempre donare dei soldi ad autistici, tra l'altro ci sono proprio, esatto, gli ultimi giorni per comprare le favolose felpe ninja, facciamo anche pubblicità, ma no, sono finite, No, ce n'erano ancora 30. Voci di corridoio dicono che sono finite. Però. Oddio. E sul sito c'è scritto che sono finite. Correte a vedere, insomma, sul sito cavallette.it. Quindi niente, se volete aprire un blog potete farlo attraverso i servizi offerti dal progetto Gnumerica, quindi www.gnumerica.org, oppure direttamente sul sito blogs.gnumerica.org e aprire il vostro blog con WordPress e... fichissimo. L'altra notizia che dobbiamo dare è che a brevissimo inizieremo i corsi di informatica al Circolab. Ne abbiamo parlato anche l'altra volta. Ne abbiamo parlato anche l'altra volta, però cioè, ne approfittiamo, facciamo un minuto di pubblicità. Stiamo appunto raccogliendo Le iscrizioni. I programmi dei corsi sono definitivi, stiamo raccogliendo le iscrizioni per decidere quale dei due corsi dovrà partire prima. Sarà uno di base, sono entrambi corsi di Linux, uno dedicato a coloro che Linux non l'hanno mai visto e quindi lo analizza più dal punto di vista della prima installazione di Linux sul computer o dell'utilizzo come sostitutivo di Windows, del sistema Linux, GNU Linux, e mentre invece l'altro corso dovrebbe essere un corso un po' più avanzato con cenni di utilizzo della shell, il sistema più visto più verso l'interno e quant'altro. Quindi sul sito del Circolab trovate entrambi i programmi dei corsi e se siete interessati ci potete mandare una mail o passare la domenica dalle 5 in poi in via Fratelli Bandiera 14C. E questa invece è la nostra fantastica sigla che chiude anche la puntata di oggi. Ogni mercoledì alle 12.40 e poi in replica su spazio.circolab.net per chi vuole ascoltarci. Oppure ci passate a trovare, come diceva Alessandro, la domenica pomeriggio dalle 5 in avanti. Oppure ci scrivete monitor, un'email. Invasione di monitor permettendo. Attenzione. E ringraziando Giulia per lo spot che ci ha fatto. È vero, non abbiamo fatto sentire lo spot. Vabbè. Ma l'ho sentito prima di arrivare. Questo lo dici tu. Noi saluto, ci sentiamo mercoledì prossimo alle 12.40 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Ciao!